Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Solo sul terrazzo in cima al pontone, nella brezza dell'ultimo settembre che faceva sventolare con un fremito continuato e sbattere di tanto in tanto con uno schiocco il tricolore in vetta al trinchetto, Ario aveva rivissuto rapidamente questi episodi ancora vicini. In fondo alle rive intravedeva sempre meglio, via via che la moltitudine sfollava, qualcosa di dorato ed azzurro in mezzo ai colori di due enormi bandiere tutte libere nell'aria. Il palco del Duca. Giungeva ancora, ma come disperso, un suono di banda. Anzi, più d'uno, perché s'udiva sempre più lontano anche una fanfara. E un'altra musica si levava, ora forte, ora lieve, da un vaporetto che usciva dal porto colmo di gente. Ario si guardò tutto in giro e guardò il cielo d'un azzurro chiaro, respirando a fondo. Poi i suoi occhi si fermarono sul ballatoio di faccia. Le scarpette di Lidia erano sempre lì. Non doveva essere uscita. Come altre volte, quando tutti correvano fuori, aveva preferito restarsene in casa, sola. E Ario non capiva che cosa stesse facendo in quei momenti. Lidia, appoggiato alla balaustra, gli occhi sul mare, pensava a lei. Ed ecco, la bellezza della giornata e quella limpidezza dell'aria e anche qualcos'altro di più profondo e vivo, come una forza lieta che rinasceva continuamente in lui, negavano, cancellavano tutte le cose che Berto gli aveva raccontato. No, non era vero. Sentiva che non poteva essere. Era come un sogno torbido, un incubo che dilegua alla luce del giorno. E se, pensò, e fu di colpo in orgasmo, andare sulla Virtus, cercare Lidia, attaccare discorso, sapere tutto da lei? No, gli mancava il coraggio. Come farle una domanda simile? Pure, pensò, Berto ha trovato il modo di parlarle anche di questo. Se ne ricordava. Sai, gli aveva raccontato Berto, che le ho detto? Che so cosa si è lasciata fare da Eneo nel camerino. Mi ha interrotto voltandomi le spalle. Oh, ma finitela, gridò, anche tu con questa storia. Schifoso! Non basta la mamma? E se n'è subito andata, ma l'ho vista farsi rossa fino ai capelli. Berto gli aveva raccontato anche questo. Ma poteva essere vero. Si era inventato tutto. Questa era l'ultima aggiunta. Tuttavia, gli risuonavano ancora nelle orecchie altre cose che Berto gli aveva dette e tutte, stranamente, tornavano a sembrargli vere. «Vuoi sapere la scusa che ha trovata?» gli aveva domandato subito dopo. «Non me la sono lasciata sfuggire così, eh? L'ho seguita per la canottiera e l'ho incontrata di nuovo. La misi allora alle strette». «Ah!» esclamò all'improvviso. «Pensi proprio che l'abbia fatto? Ebbene, nel caso che l'abbia fatto, è stato per farvi dispetto a te e a papà. L'idea di farlo mi è venuta quella notte. Se non mi aveste esaminata, non mi veniva». «Ma come?» lo guardò Ario con gli occhi spalancati. «Hai avuto il coraggio di parlargliene?» Berto rise, mostrando i denti. «Capirai», ribatté, «se lei ha avuto il coraggio di farlo. Ma ascolta cosa mi ha detto poi. Credi del resto, mi ha detto, che le ragazze che incontri, specialmente quelle carine che tu guardi, sì, le guardi, mi ha detto, me ne sono accorta, non abbiano mai combinato nulla? Più si è belle e più è difficile». Qui tacque e poi riprese. «Insomma, è sempre stato così e sarà sempre così». Mi voltò la schiena e fece per andarsene, ma poi mi tornò vicino. «È sempre stato così», ripeté, «anche, che so, al tempo delle nostre nonne, soltanto che non lo si fa capire». Tacque un'altra volta. E poi, «mamma, per esempio, prima di sposare papà, non è mica stata vedova come ti ho detto quel giorno? Non era sposata con nessuno prima. A me mi ha avuto così». con un signore. Ario fece per annuire, ma per fortuna si trattenne. Hai capito? Stava gridando Berto e si era fatto rosso sino agli occhi. Che cosa mi ha detto? Questa di mamma se l'è inventata lei, perfida com'è, per non farsi rimproverare. E figurati che era tornata indietro e che mi aveva fatto tutto quel discorso soltanto per arrivare a questo. Pensa se mamma lo sapesse. Le ho dato un pugno urlando: taci! Tu sei quello che sei e ormai tutti cominciano a saperlo, ma non inventarti cose simili di mamma se non vuoi che ti accoppi. Aveva alzato la voce anche adesso ed era acceso, col respiro in gola. A mamma, esclamò, non ho voluto dire nulla e non glielo dirò, e nemmeno a mio padre. Ma le cose non finiscono qua. E gli occhi gli scintillarono. A Lidia ho giurato di fargliela pagare. Che le farai? Si oscurò Ario. Non lo so ancora, ma qualcosa le farò, vedrai. Sì, gliela faccio pagare. Altro che signore o povero diavolo. Ah, già, tornò a guardare Ario, e questa è un'altra sua fisima. Da un po' di tempo continua a dire, son venuto a saperlo, che lei è figlia di un signore. Le rive, nei pressi delle canottiere, cominciavano a rianimarsi. Si udivano voci qua e là nel mandracchio e uno sbuffo di motore e di tanto in tanto un colpo metallico che vibrava a lungo. Riprendono a lavorare, pensò. Ecco che muovono da capo i vagoni. E guardando dall'altra parte, verso la torre della lanterna, sotto la quale passava un altro vaporetto colmo di gente, stette immobile ad ascoltare il cozzo dei respingenti. Era ancora lì quando udì un fischio e poi Ario! Si voltò di scatto, guardò giù sul molo. Di ritorno? Domandò. Com'era? Stupido che sei stato, gridò Bertoli sotto, animato, felice. Si può essere più macachi di così? Tornare indietro quando eri già lontano e soltanto perché tua madre ti chiamava. Bastavano due passi e sparivi tra la folla. Bella la rivista? Lo interruppe Ario. Com'era? La più bella che abbia mai veduto. E per questo cosa importa? Lo interruppe di nuovo Ario. Ne ho già viste e ne vedrò. Va bene, ma una come oggi non potrai vederla più. Non ci sono mica sempre i soldati di ritorno dalla guerra. Pensa che sono venuti apposta anche molti reggimenti di alpini, quelli stessi che hanno combattuto in Africa. E poi i marinai degli incrociatori. Dovevi vederli. Sono ancora scuri del sole dell'Oceano Indiano. Ma cosa fai lassù? Ario discese in fretta. Come sempre, la sola presenza di Berto gli metteva un fervore, lo animava. Si avviarono lungo la riva, costeggiando il mandracchio e poi più su, il bacino della lanterna. Sebbene fosse giornata di festa, si lavorava in diversi punti. Alcuni vagoni carichi di carbone venivano sganciati e spinti quale sull'una e quale sull'altra parte della riva, ed erano lasciati poi fermi sui binari. «Li portano davanti alle Maone», spiegò Oberto. «Devono finire di caricarle, sebbene sia festa. Domattina all'alba il Titanus le rimorchierà sotto il Conte Verde, che deve far carbone, e poi parte». «Le Maone», pensò Ario, come sul punto di ricordarsi qualcosa. E gli parve di rivedere nel mandracchio la sarabanda delle barche sulle onde sollevate il mattino dagli incrociatori. «Ah!» fece un tratto, mettendosi d'un balzo davanti a Berto. «Qual è l'idea che ti è venuta stamattina?» «Quale idea?» «Quella, sai, che ti è venuta quando issavamo la bandiera sul tuo pontone». «Ah già!» si arrestò Berto illuminandosi. «Che idea! Roba da cine! Hai fatto bene a ricordarmela!» Ario seguiva ogni suo movimento, con gli occhi lucidi e inquieti. «Beh, dimmela!» proruppe. Berto non rispose. Si era fatto serio. «Su, dimmela!» insistette Ario e gli saltellava intorno. «No», rispose Berto, «non te la dico. Di te non ci si può fidare». «Di me non ci si può fidare», scattò Ario. «Ma che dici? Ho mai raccontato ad altri qualcosa? Ti ho mai tradito?» Berto tacque nuovamente e Ario lo guardava, ansioso. Poi Berto scosse il capo, serio. «No», si limitò a rispondere, «non te la dico. È meglio». Proseguirono e tacevano entrambi. In Ario era venuto meno di colpo tutto il fervore che lo aveva animato sin là. E Berto pareva sopra pensiero, quasi che ora quell'idea, più che rallegrarlo, lo preoccupasse. Cercarono di parlare d'altro. «Sai», esclamò Berto, «che mi insegnerà la lotta?» «La lotta?» si voltò Ario a guardarlo. «Chi?» Non conoscevano né lui né Berto alcun pugile e tantomeno lottatori. «Chi? Eneo!» Ario tacque. «Me l'ha promesso», riprese Berto felice. «Anzi, è stato lui a offrirmi di insegnarmi la lotta». «Il pugilato, vuoi dire?» «No, no, proprio la lotta. Non so se greco, romana o libera». Ario si ricordò a questo punto e sentì come allora una folata calda al petto e in viso di quel giorno che s'era incontrato con Eneo nell'andito della doccia ed era in mutandine da bagno ed Eneo, con le pupille che parevano due righe di luce tra le palpebre socchiuse, gli aveva abbracciato in un solo sguardo rapido tutta la persona. «Non ho mai saputo», si limitò a osservare, «che Eneo conoscesse anche la lotta». «Invece la conosce. E come? Figurati che mi ha offerto di insegnarmi tutte le mosse, anche quelle proibite. Dice che riuscirò e mi ripete che sarò contento. Dice che sono proprio il tipo per queste cose e che molti ragazzi avrebbero voluto fare lotta con lui, ma che lui ha preferito me e che non devo farlo sapere ad altri». Ario lo guardò un po' di sbieco e tacque. «E lo sai, Eneo», ruppe il silenzio a un tratto, «che ti alleni anche tu con uno schif». «No, taci!» si allarmò Berto. «Povero te se glielo dici!» S'era fermato e lo fissava con due pupille pazze. «Non sei mio amico se glielo dici!» «Invece glielo dirò», rispose Ario. «Ma che hai? Vuoi forse...» balbettò Berto. Il solo pensiero che Eneo venisse a sapere che egli si allenava di nascosto con uno schif doveva offuscargli le idee. Era già rosso. Si vergognava, quasi avesse dinanzi Eneo e non sapesse come scusarsi d'aver avuto quell'iniziativa a sua insaputa. «Sì, glielo dirò», ripeté Ario, ed era lui ora a fissare Berto. «Glielo dirai?» si fece pallido Berto. «Bada!» gridò, ed ebbe uno scatto, quasi volesse saltargli addosso. Era spettinato, col ciuffo ritto sulla fronte. «Se glielo dici, avrò anch'io qualcosa da raccontargli». «Che cosa?» si oscurò Ario. «Gli dirò che sei un bugiardo, che ti inventi tutto ciò che racconti. Te la sei pensata tu, per esempio, che tuo padre sta a New York. Tu non sai nulla di tuo padre». «No!» gridò Ario, e una ventata lo sconvolse. Si sentì sollevare e portar via, senza capire più niente. «Non me la sono inventata! È vero, sì, è vero, è vero. Io so tutto di mio padre. Ci scrive sempre. Sappiamo che è a Nuova York e che è famoso». «Ah, sì?» rise Berto. «È famoso? E cosa fa? Sentiamo». Travolto, Ario non poteva trattenersi. Non riusciva a vincersi più. «È un campione!» stava per gridare. «Un campione celebre, come Eneo non diventerà mai». Ed era, in quell'istante, come se tutto ciò fosse vero. «È un campione?» lo precedette per fortuna Berto, quasi gli avesse letto negli occhi. «Un campione del mondo?» e rideva. «No, campione no, perché se ne frega», fece una smorfia Ario. «Ma è allenatore, un grande allenatore». «E di che?» «Di nuoto». Al ritorno, camminavano in fretta e ogni tanto guardavano verso i pontoni, sentendo entrambi appetito, s'erano già pacificati e accordati. «Beh, mi dici l'idea che ti è venuta?» aveva ripreso Ario poco dopo. «Te la dirò», rispose Berto, «ma tu promettimi che non racconterai a Eneo che mi sono allenato con lo schif». «Te lo prometto. Dimmela». «No, adesso no. Devo ancora pensarci, poi sentirai». «Roba da cine», ripeté. Si lasciarono davanti alla passerella della Virtus. «Siamo d'accordo», disse Berto. «Corri da me appena hai finito di mangiare. Usciremo col caicio e ti racconterò tutto. Vedrai che progetto». Ma ricordati, lo fissò, che si fa sul serio. Io ti spiegherò, ti insegnerò, e tu dovrai aiutarmi.